Nova Lab 24. Nova Lab 24. La voce dell'innovazione. Buon pomeriggio e benvenuti, Luca Tremolada ai microfoni. Oggi sono lieto di presentarvi i Silver User. Chi sono i Silver User? Sono una generazione della la terza età su internet, diciamo una generazione che non è nata con il mouse in mano, ma che ha in un certo modo inventato qualche cosa su internet. Sono qui con Giampaolo Colletti che ci racconta che cosa hanno inventato. Beh, hanno reinventato forse un modo di stare in rete. In Italia ci sono una novantina di canali creati così per passione da non più giovanissimi che decidono di raccontare con la telecamera i territori d'Italia. Paradosso digitale, queste emittenti, Luca, non nascono nei contesti metropolitani ma nei paesi, nei piccoli comuni italiani. E sono storie bellissime, tra l'altro. Anzi, diciamo che visto quello che va in onda adesso in televisione, forse sono il palinsesto più bello e più divertente. Infatti noi ai nostri ascoltatori chiediamo di raccontarci che cosa vorreste vedere in queste televisioni straordinarie. 824 0024 per chiamare in trasmissione, 349 238 6666 per gli sms, anche perché qui abbiamo con noi, armato di telecamera, Piero da Saronno. Buongiorno. Buongiorno. Lei ha realizzato una bellissima web TV da Saronno, che si chiama appunto Piero da Saronno. Sì, in effetti è il mio nome, non è un personaggio storico come molti pensano, è il mio nome, ecco, Piero da Saronno. Allora ci dia un secondo che adesso trasmettiamo, facciamo sentire chi è Piero da Saronno. Piero Vellini, pensionato 63enne, ex impiegato di banca e grande appassionato di sport e di ripresa video. La storia di Piero si intreccia con quella della sua creatura digitale, pierodasaronno.eu. Piero è il creatore di una piccolissima TV online di Saronno, nel Varesotto. Ha messo in piedi il canale nel 2004, insieme ad un gruppo di suoi amici pensionati, giorno per giorno. Il suo pubblico? Un bacino di circa 100.000 abitanti. Collaboratori? Siamo tutti amici, spiega Piero. Redazione trasversale, giovani e meno giovani insieme. E così, camera in spalla, Piero racconta Saronno dalle mille facce. Ci sono servizi sullo sport, la cultura e la vita associativa saronnese. I visitatori arrivano da 22 nazioni del mondo, un orgoglio per Piero. Mediamente ogni mese vengono pubblicati 20 video, 5 alla settimana. Una vera e propria task force per raccontare un territorio di periferia industriale. Quindi sono storie di persone. Lei è famoso adesso a Saronno? Ma a Saronno mi conoscono in parecchi. Conoscono il nome, Piero da Saronno. Magari come viso non mi conoscono. Ma pian piano se mi sto mostrando, proprio perché voglio rendere ancora più efficace quello che racconto, quello che voglio fare. Ecco, oggi che cosa manda in onda, per esempio, stasera? Che cosa va? Stasera vado a riprendere i Pig Speed, che sono un complesso musicale di saronnesi, che comunque hanno la sala prove a Cislago, che è un paese a 5-6 km da Saronno. Ecco, non è un caso che Piero vada di sera a fare delle riprese video. Moltissimi micro web TV, moltissimi videomaker, per caso e per passione, girano nel weekend e la sera. Sono cittadini che fanno altro nella vita, artigiani, tabaccai, pensionati, e poi nel fine settimana o nel tempo libero decidono di raccontare e anche di denunciare ciò che non va nel proprio territorio. Ecco, noi abbiamo un esempio, insomma, della televisione del signor Carlo, che è un'intervista alla signora Carla della CUT dei Quatordes. Ho detto bene? Giusto. Perché io non è che sono milanesissimo. La CUT dei Quatordes. Ecco, si dice così. Sentiamo. Siamo nella casa della signora Carla, una saronnese doc che abita da una vita, possiamo dire, nella CUT di Quatordes in via San Cristoforo numero 27. Ciao Carla, sono contenta di essere qua a casa tua, era un po' che non ci si vedeva. Anche a me sono contenta, che te vedi, Patrizia. Bene. Patrizia. Sì, Patrizia. Ecco, sono proprio contenta, per tempo che te vedi no. Ecco. Senta, sarebbe bello che ci raccontasse un po' della sua vita, della vita nel cortile, di come viveva quando era piccola. Cortile, quando ero piccola. Lei è una saronnese doc? È nata a Saronno? Ah sì, sono nata a Saronno e sono qui, che sono 79 anni che sono qui. Ha sempre abitato nella CUT di Quatordes? Sì, sempre abituata dalla CUT di Quatordes. Ecco, ma non sono solo saronnesi doc, perché l'ha sottolineato due volte nell'intervista, cioè si raccontano anche storie... Anche di altri, in effetti, cioè abbiamo detto saronnesi doc per dire che è di Saronno quella persona. Ecco, la cosa particolare in realtà è che poi una televisione multilingua, se la rete, il linguaggio è l'inglese universale, queste micro web TV parlano i dialetti locali, quindi potrete trovare, navigando per le micro web TV italiane, alcune web TV nei dialetti tipici territoriali. Sì, infatti mi ha parlato di uno sport che c'è solo a Saronno e che voi avete ripreso. Sì, è nato a Saronno in Italia ed è il ciucball. Il ciucball. Un magnifico sport. Noi abbiamo ripreso di questo tipo sport la prima giornata del primo campionato italiano, tutto completo, e in effetti è visitato da molte persone. Hanno fatto addirittura un palinsesto ciucball. E siete forti? E siamo forti in quel palinsesto del ciucball. Adesso fra due settimane probabilmente andremo a ripetere una partita di queste. Sono partite particolari e abbiamo l'unico telecronista di ciucball. Certo, perché è difficile fare una telecronaca di ciucball. Devo conoscere tutte le regole. Certo. Non sarà semplice. No. Ma noi lo lanciamo in radio il ciucball, perché può essere anche uno sport che piace. Tra l'altro tu mi raccontavi che sugli sport minori sono straordinarie le micro web TV. Diciamo che le micro web TV vanno a coprire quei temi che non coprono i media tradizionali generalisti, quindi hanno qualcosa in più rispetto ai canali tradizionali. E poi una cosa particolare: molto spesso la programmazione cercano di raccontarla anche con mezzi non convenzionali. Penso al palinsesto pubblicato nelle bacheche di alcuni condomini, ma anche per esempio Insu TV, una televisione napoletana che appende agli angoli delle strade dei quartieri spagnoli la programmazione della settimana. Tra l'altro sono anche militanti, perché il signor Piero si è presentato qui nella sede del Sole 24 Ore con una telecamera che ci sta riprendendo, insomma senza autorizzazioni, per cui insomma noi stiamo sudando freddo, però è così, si va in giro con telecamera in spalla e se si capita riprende l'occasione. Certo, naturalmente sono, diciamo che sono quasi sempre programmate le riprese, ma avendo una telecamera dietro possono capitare degli scoop. Il vantaggio è che la camera è leggera, quindi con pochi spiccioli si acquistano telecamere semiprofessionali e poi si mette tutto in rete. Esatto. Insomma, se da qualche altra parte d'Italia avete il ciucball o avete qualche sport che non conosciamo ma che vogliamo conoscere, anzi che vogliamo vedere attraverso le micro web TV, 824 0024. E adesso raccontiamo la storia, anzi Giampaolo mi racconti la storia di Teletore 19, che anche questa è straordinaria. Beh, una televisione particolare. Ci spostiamo da Saronno a Bologna e quartiere Pilastro. A Bologna nasce la prima TV di condominio, una TV che trova la sua forza e il suo audience all'interno di un condominio di 72 famiglie. Quindi proprio diciamo che quando le famiglie sono collegate via cavo con questa televisione raggiungono un picco d'ascolto. Quindi a chi sembrava piccola la televisione di Saronno, pensate, cioè il condominio, cioè una cosa per pochi intimi. Da poco tempo la programmazione è anche in rete, e qui la sorpresa: spesso queste micro web TV, come Teletorre 19 in questo caso, vengono visitate da chi è all'estero. Gli italiani all'estero si collegano e vogliono sapere cosa accade nel loro territorio nativo. Ecco, ma noi abbiamo proprio il fondatore di Teletorre 19, Gabriele Grandi. Buongiorno. Buongiorno, è un nome impressionante. È un nome impressionante, beh certo. Allora, un secondo che facciamo sentire la scheda sulla sua televisione. Gabriele Grandi è un dinamico pensionato. È inquilino di uno stabile particolarmente affollato, ma anche l'ideatore di una TV interna a questo condominio. Quartiere San Donato, Rione Pilastro. Qui, in uno dei quattro grattacieli costruiti intorno alla metà degli anni 70, Gabriele ha creato un piccolo miracolo di creatività domestica. Questa prima TV di condominio in Italia si chiama Teletorre 19. Il debutto con un programma realizzato con telecamera fissa sulla tangenziale. Un esperimento di quello che a breve sarebbe diventata una TV fatta dai vicini di casa. Per Gabriele, una chiave del successo è la programmazione differenziata. Ci si occupa della cura degli animali domestici, c'è poi la rubrica sul galateo condominiale e ancora quella sul regolamento e sui conti del palazzo. E poi il notiziario di Teletorre 19, punta di diamante della programmazione. Gabriele l'ha chiamato finestra aperta. Il palinsesto è anche visibile online su teletorre19.com. Per i telespettatori e vicini di casa è anche appeso alla bacheca di ingresso del palazzo. Una pratica guida TV per la TV della porta accanto. Buongiorno Grandi. Buongiorno, direi che in sintesi avete già detto tutto quel che c'era da dire, potrei salutare e rimettermi all'ascolto. No, invece abbiamo appena iniziato, perché la cosa che volevo capire, ma cioè praticamente cosa succede? Che io posso suggerire il film della serata, cioè arrivo a casa la sera e scrivo sulla bacheca che voglio vedere un certo film? No, fin qui non ci siamo arrivati, però abbiamo trovato una via intermedia, abbiamo messo insieme un gruppo di 5, 6, 7 persone, tutti abitanti nel condominio, che periodicamente si ritrovano e fanno la programmazione dei film, decidono la programmazione dei film. Non solo, perché tra l'altro ho visto che anche nella televisione, tra l'altro tutti gli indirizzi di queste televisioni le troverete sul Twitter di Nova Lab, che è twitter.com/novalab24, per cui insomma si potrà accedere tranquillamente a queste televisioni. Tra l'altro stavo leggendo che avete delle rubriche, uno sguardo dal tetto, che cosa succede a Bologna, oppure le poesie sotto i portici, vero Giampaolo? Beh sì, loro cercano appunto di differenziare la programmazione, ma poi si ritrovano nella riunione di redazione e la cosa particolare è che hanno una specie di stanza, una stanza adibita per le riprese televisive, un'idea anche utile per magari qualche altro grande condominio delle nostre metropoli, insomma. Ma sì, come idea, questa è un'idea tecnica molto particolare. Una cosa che mi ha lasciato un po' così perplesso in tutti questi anni, non mi ricordo se è stato detto nella scheda, ma la prima trasmissione ufficiale di Telettore 19 data 10 dicembre 2001. Ora, come vedete, sono passati già molti anni e al momento, ancora tutt'oggi, non ho avuto nessuna notizia di un'altra esperienza simile alla nostra. Ecco, noi qui siamo in questo momento siamo un pochino fuori tema rispetto al tema della vostra trasmissione. Noi no, abbiamo perché? Anche una presenza su internet, no? Ma siamo nati come semplice televisione condominiale, quindi la cosa più ristretta e più ridotta che si possa immaginare. Beh, siete dei pionieri, quindi, no? Ma sì, sì e no, ecco adesso, perché abbiamo poi scoperto che in realtà c'era stato un personaggio diventato poi molto illustre che l'aveva fatto prima di noi, ma lui aveva comunque... Ma ci sta rivelando uno scoop? No, ormai è nota anche questa cosa, e cioè parlo di quel signore che ha creato Milano 2. Attenzione! E in Milano 2 è tutta una serie di appartamenti di particolare pregio, aveva per primo, per quello che so, dotato tutte le prese di antenna anche di un canale televisivo. Quindi lui, che è diventato poi il signore delle televisioni italiane, ha cominciato... E non solo, è anche il Presidente del Consiglio, mi sembra di capire. Sì, mi dicono di sì. bene, questo... Ma mi stai dicendo signore... che ha copiato Berlusconi, cioè sostanzialmente, oppure no, non lo sapevate? Io l'ho scoperto dopo, sinceramente. Ah, ok, no. Ci crediamo. Ma poi comunque mi sono salvato in corner, perché in realtà... Quello che questo signore aveva fatto allora era comunque una cosa sostanzialmente diversa dalla nostra. Tecnicamente il principio era il medesimo, cioè quello di irradiare una programmazione utilizzando il circuito dell'antenna condominiale comune a tutti, ma non erano i condomini che facevano la televisione. Era altra gente. Erano i professionisti. Beh, Grandi, lei ha sottovalutato un aspetto, che in realtà il valore della vostra esperienza è che vi riunite anche ogni due mesi e fate degli incontri anche di raccolta fondi per portare avanti, diciamo così, la programmazione Teletorre 19. Sì, ma posso far sentire solo una, perché quando si parla di Bologna, un piccolo video, un piccolo estratto da un video della signora Gabriella Lorenzini. Il titolo della rubrica e del video è La cucina di casa nostra. Certo. Sto preparando un secondo che viene sostanzioso, buono, è una specie di parmigiana di verdure. Come vedete ho già preparato le verdure, le ho lavate, le ho preparata. E poi dopo vi farò vedere il seguito. Chiaramente il video va avanti e mostra, cioè, tutta la preparazione della parmigiana di verdure. Tutto piatto fino alla sua consumazione finale. Questo, in realtà, questo non è una grandissima idea, perché no, però la Gabriella Lorenzini è una sua condomina. Sì, certo. Beh, certo. Certo, ma sono chiunque fa qualche cosa con Teletorre è un condomino. C'è soltanto un'eccezione che è arrivata molto avanti nel tempo, un paio d'anni fa, di una giovane signora, una casalinga, che però si è iscritta a un corso universitario di comunicazione e come tesi aveva quella di creare una programmazione sulla storia, sull'arte contemporanea, le arti visive contemporanee. Questa era la sua tesi, diciamo. Beh, mi voglio augurare, Grandi, che non si stia professionalizzando, non si stia berlusconizzando come canale televisivo, rimanga come TV di condominio, non apra le porte ai professionisti. Rimanga umile, rimanga. Non ci allarghiamo. Io sono più che umilissimo. Posso, mi ha fatto venire in mente un passaggio della parte precedente del servizio, quando si è detto che il signore che sta lì con voi adesso vi sta riprendendo con la telecamera e avete qualche fibrillazione in più, no? Non ce lo ricordi, cioè che mentre lei parlava il signore si è alzato, è andato a sistemare la telecamera, c'erano i tecnici che sono impazziti perché devono rifare il suono della voce. Vada avanti. Ah, mamma mia. Beh, a noi è capitato, a un certo punto siamo diventati abbastanza noti e siamo stati invitati negli studi della RAI a Roma, in via Teolada, per partecipare proprio come diciamo staff della televisione di condominio a un programma di Rai 2. E naturalmente noi siamo andati in là anche con la nostra telecamera, intenzionati a fare quello che sta facendo il vostro ospite in questo momento. E mal ce ne incolse, perché a un certo punto il collega che stava facendo delle riprese nel cortile interno di via Teolada è stato preso da due energumeni della sicurezza, ecco, e portato in una stanza al terzo piano, e lì è stato sottoposto a interrogatorio. Che stato? A un certo punto, visto che era sparito, ci siamo chiesti ma dove è andata a finire, e abbiamo scoperto che era accaduto questa cosa. Allora mi sono presentato io come garante, in un certo qual modo, sì, ero poi comunque il trade union con loro. E insomma, abbiamo dovuto cancellare tutto quello che era stato registrato, le riprese, per poter riavere la nostra cassetta e la nostra telecamera. Beh, ecco, c'è da dire che quando noi abbiamo realizzato un meeting con tutte queste micro web TV, con le 40-50 micro web TV presenti, in realtà c'erano più telecamere che partecipanti, e perché ognuno portava la propria telecamera e documentava. Era un contesto diverso, in un contesto universitario, però insomma la presenza di telecamera era cospicua. Sì, certo. Tra l'altro, cioè, fa anche strano vedere così tanti occhi puntati, però non sono puntati mai dall'alto verso il basso, sono sempre puntati ad altezza uomo, nel senso. La cosa particolare di questa programmazione dal basso è che si raccontano le storie dei vicini di casa, quindi storie che in realtà non andrebbero sui media tradizionali, e quindi la telecamera documenta uno spaccato del territorio che in realtà non c'è assolutamente. Sì. Cioè, certamente noi entriamo in uno spazio che ha una normale televisione non interesserebbe nulla, mentre invece nella nostra quotidianità può diventare interessante, ad esempio avere le date di compleanno e di matrimonio della maggior parte dei condomini e fare loro gli auguri tempestivi. Sì, che sono, che sono piccole ma grandissime cose, queste. Questa cosa qui poi comporta che altri condomini, quando incontrano i festeggiati, si associano e li festeggiano e gli fanno gli auguri. In effetti questo gioco, che è nato come un gioco e rimane un gioco, no? Non abbiamo nessuna intenzione di espanderci, di diventare i signori delle televisioni condominiali, ecco. Nasce così, rimane così, e serve molto per cementare una coesione che nel condominio esisteva già da prima. Ecco, questo condominio è molto speciale in realtà. Nova Lab 24. Bentornati, Luca Tremolada al microfono. Parliamo di micro web TV, parliamo di Silver User, ovvero la terza, la generazione che non è nata con l'iPod in mano, con il mouse in mano, ma col telecomando, e che ha creato delle televisioni su internet. E abbiamo qui Piero da Saronno e abbiamo anche un caramba da sorpresa, un caramba che sorpresa, perché Roberto ci dice che ha appena ascoltato in radio la voce della zia Carla di Saronno, per cui un incrocio straordinario. Nel senso che si sono riusciti ad incontrare, è una cosa bella. Questa la metterà nella sua televisione, spero. Senz'altro, metterà senz'altro. Il podcast, mi raccomando. Senz'altro. Però potremmo consigliare a questo Roberto di andare a vederlo il filmato, che è un po' più lungo di quello che è stato. Che ricordiamo che era l'intervista alla zia Carla di Saronno, 2 minuti, 3 minuti di intervista, era una cosa piuttosto ampia. Ma non parliamo solo di Saronno, parliamo anche di Orso TV, vero? Orso TV, questa micro web TV di montagna. In realtà le micro web TV create dai silver users, dai navigatori dai capelli d'argento, nascono molto spesso anche nei territori di montagna. Orso TV è l'acronimo di Orco e Soana, le valli piemontesi, dove un gruppo di pensionati e giovani insieme realizzano un canale radio. Sentiamo la scheda. Almos, per 23 anni, ha percorso i sentieri di montagna. Almos è il guardiano del parco del Gran Paradiso e il pubblico della rete l'ha conosciuto grazie a una micro web TV. L'idea di creare una TV per le valli Orco e Soana spetta a Franco Ferrero, una delle anime del canale. Lui ama definirsi animatore del villaggio, anche se poi i villaggi sono diversi. 11 micro comuni per una popolazione che sfiora le 8.000 anime. Franco è particolarmente orgoglioso di un suo format. La punta di diamante della programmazione per lui è Come eravamo. I giovani degli anni 50 e 60, ora non più giovanissimi, inviano i materiali video autoprodotti tenuti in casa. Ad oggi sono state inserite in programmazione oltre 16 ore di contenuti. Con questa micro web TV, Franco punta sul recupero della memoria storica in Super 8. Buongiorno signor Franco. Buongiorno, buon pomeriggio. Ma quindi che cos'è che poi, per esempio, che cos'è che trova oggi un com'è che si dice, un web spettatore, una cosa brutta, un telespettatore del web, ecco. Ma la peculiarità nostra rispetto ad altre esperienze interessanti come quelle che voi descrivete è quella di essere, stato detto, un territorio di montagna. Quindi questa web TV nasce alla fine del 2007 su iniziativa regionale della comunità montana, per nell'ambito di un progetto che ha portato la banda larga sul territorio. Quindi per sperimentare l'infrastruttura, diciamo, hard, si è realizzato un sistema di comunicazione integrato multicanale che va sul web www.orcosoana.tv e che comprende la net TV, la web TV, un blog che è praticamente la bacheca di tutte le associazioni di questo villaggio allargato di cui parlavamo, villaggio di Asterix, mi viene da dire, per via della montagna, e poi c'è anche una video community. Per cui io sono l'unico, tra virgolette, professionista in quanto giornalista della cosa, e ricevo dei contributi filmati che sono molto particolari perché sono legati ad eventi, a micro eventi, ma eventi esclusivi. Posso pensare alla festa del santuario di San Besso a 2000 metri di quota che si fa anche il primo di dicembre con qualsiasi tempo. Bene, noi abbiamo queste immagini che ci riportano ad un'idea di micro TV che è legata all'identità e alla memoria, e sulla memoria appunto c'è questo discorso che si faceva di Come eravamo, in cui abbiamo raccolto le vecchie pellicole in Super 8. Le avete digitalizzate sostanzialmente. Le abbiamo digitalizzate, rimontate in sorta di clip, chiamiamoli così, musicali tematici, che non so, sono dedicati alle ascensioni alpinistiche, ma anche al lavoro, anche ai giochi dei bambini e così via, che sono un vero e proprio spaccato, di questo sono molto orgoglioso, perché sono un vero e proprio spaccato di pezzi di storia che si rischia altrimenti di perdere. Ecco, la cosa difficoltosa per le micro web TV di montagna è che in realtà la programmazione deve bloccarsi quando magari il maltempo non consente di girare con la camera. Quindi quando fa molta neve in queste località, beh, la programmazione subisce una battuta d'arresto. Non è vero, Ferrero? Qualche sì, volta... è vero, anche se devo dire che quest'inverno, proprio a causa del maltempo, comunque della straordinaria nevicata che, devo dire, in alcuni dei comuni del nostro territorio ha raggiunto anche dai 6 ai 9 metri di neve, quindi siamo come gli eschimesi. Ecco, io ho avuto le immagini in anteprima che non aveva neanche la nostra TV locale, perché un ragazzo è uscito col telefonino con l'automobile mentre arrivavano i servizi della Protezione Civile a spalare questi 6 metri di neve. Per ecco, cui, ecco, ma come siete da un lato c'è il limite, ma poi se si ristabiliscono i collegamenti elettrici e telematici, diciamo così, poi abbiamo delle immagini anche straordinarie. Ma come siete percepiti in zona? Nel senso che la popolazione, insomma, com'è che vi percepiscono? Come delle persone che stanno rendendo un servizio o tutto sommato un'iniziativa un po' eccentrica? Ma allora, ci sono due livelli, dovendo essere onesti. Allora, c'è un livello che è quello del coinvolgimento della realtà locale, che noi abbiamo tenuto sempre molto presente. Noi siamo partiti con un understatement tutto piemontese, per cui non abbiamo fatto grossi proclami, però abbiamo contattato tutte le associazioni locali, abbiamo lavorato in tutti i comuni, immediatamente è partito un format che si chiamava I Paesi si raccontano, in cui tutti quanti andavano a raccontarsi. Quindi, diciamo così, è una TV partecipata dal basso, e questo non ci fa sentire degli strani o cose del genere. Poi i contributi vengono dal territorio, dalle varie associazioni e quant'altro. C'è un altro livello che però è detto, che è quello del divario digitale. Come dicevo, è nata in maniera sperimentale alla fine del 2007 e solo da quest'anno c'è stata una distribuzione di banda ai privati, per cui è un'esperienza in crescita che noi ci aspettiamo che venga sempre più condivisa, perché altrimenti era un po' difficile anche da fruire sul territorio. Va detto che in maniera sperimentale noi eravamo visibili anche per una certa area sul digitale terrestre e sui videofonini. Ecco, una storia completamente diversa invece è quella di Ignazia Olianas. Buongiorno. Buongiorno. Gianpaolo, spiegami un po' come... Beh, dove qui... si trova e cosa succede? Questa è un'altra storia che è dell'incredibile. Beh, noi ci troviamo qui in questo caso in un territorio fantastico, la Sardegna, in provincia di Cagliari, e c'è una cosa particolare, che queste micro web TV documentano il territorio, e questa micro web TV, che si chiama viadeicentenari.it, ha scoperto che in questa via particolare, che hanno risoprannominato, ribattezzato Via dei Centenari, c'è una concentrazione forte di ultracentenari. Quindi il segreto dell'eterna giovinezza. Cercano in qualche modo di documentare questo, fanno anche qualcosa, pillole di lunga vita, l'elisir di lunga vita. Oliana, sei vero? Sì, è vero. Allora, questa associazione è sorta con l'idea di promuovere un po' sia il territorio, ma anche di fare in modo che le esperienze di questi centenari non andassero perse, quindi che ci fosse uno scambio tra queste persone che piano piano chiaramente vanno via e noi, insomma, chi rimane più giovane, quindi lasciandoci qualcosa. E l'elisir di lunga vita, diciamo, lo si vede un po'... considerando proprio il fatto che si coagulano varie persone tutte nelle stesse zone, quindi parliamo del Sarcidano, siamo a circa un'ora da Cagliari e ci sono i vari paesi, da Orroli a Laconi, Serri, Scolca, Gergè, insomma abbiamo varie persone in cui comunque abbiamo avuto vari centenari. Ma qual è il segreto? Cioè, che cos'è che ha capito in questa strada, percorrendo questa via dei centenari? Allora, noi proprio dalle interviste che facciamo, un po' anche da alcuni studi, diciamo, sembrerebbe che non c'è un qualcosa che può essere legato, non so, a un unico fattore. Sicuramente tutti quelli che abbiamo intervistato, e che spesso ci troviamo a andare a incontrare portando dei turisti, e comunque sono persone che hanno lavorato molto, che hanno una vita parca nel modo di fare, nell'alimentazione, ma che sono anche molto sereni, delle persone che hanno autostima, e quindi una certa serenità è quello che comunque abbiamo notato che è in comune a vari, alla maggior parte delle persone. Serenità, quindi una dieta, insomma, equilibrata. Sicuramente non hanno nessuno di loro, da quello che abbiamo con le persone con cui ho parlato, anche persone non solo della nostra zona, e che comunque la gente, non visto che parliamo di 100 anni, non ha mai strafatto un'alimentazione, insomma, anche chi nell'alimentazione, nel bere, però però una cosa che ci ha colpito in tutti è una grande volontà per cui persone che hanno dovuto affrontare problemi grandi e tanta serenità, forza. Ecco, per ascoltare e per vedere le interviste di queste persone trovate tutti gli indirizzi sul Twitter di Novalab24, twitter.com/novalab24. Beh, la cosa particolare è che in realtà questi ultracentenari diventano dei testimonial ascoltati e intervistati dai più giovani. C'è un passaggio intergenerazionale fondamentale. Avviene questo anche per Telesenior, una micro web TV di Bolzano creata dall'Università della Terza Età, ma irradiata grazie al contributo di giovanissimi. Telesenior.tv è il sito di questa esperienza, anche in questo caso di Silver User. Io ringrazio Ignazio Aulianas, Franco Ferrero e Gabriele Grandi. Ricordiamo che tutti i loro indirizzi internet li troviamo su internet, poi magari un giorno riusciremo anche a sentirvi nella televisione tradizionale, o anche no, che dice? No, forse non è neanche non quello, interessa. Non interessa, no, dice, no, ma... Nova Lab 24. Ha fatto il giro del mondo su YouTube il video che mostra un gruppo di poliziotti americani mentre, nel bel mezzo di un blitz antidroga, se la spassano giocando a bowling sulla piattaforma Nintendo Wii. Gli agenti statunitensi saranno felici dei ribassi del 20% sui prezzi della console. Meno fortunati i loro colleghi in Europa, dove non è prevista alcuna riduzione di prezzo. Aumento di capitale per Twitter. Il sito di microblogging, che ancora non percepisce ricavi, incrementerà il suo capitale sociale di 100 milioni di dollari, portando il suo valore a 1 miliardo. Il finanziamento non verrà utilizzato subito, ma servirà a garantire un'ulteriore crescita per Twitter, che nell'ultimo anno ha quadruplicato il suo valore, con un bacino di 300 milioni di utenti. Arrivano le prime immagini di Pure e Turtle, gli smartphone della serie Pink su cui la casa di Redmond starebbe lavorando. Tastiere a scomparsa, forme arrotondate. Saranno queste le nuove carte di Microsoft contro iPhone. Basterà qualche curva a battere Apple? Il MacBook diventa fricchettone. Le custodie realizzate da Colcasac per il portatile Apple permetteranno finalmente agli utenti hippie, rasta o nature oriented, di abbandonare quelle orribili sacche moderne in plastica che rovinano il loro look. In fibra di canapa, ben imbottite e dal design down to earth, si potranno acquistare per 20 euro. Enrico Pagliarini mi ha raggiunto adesso in studio. Domani 2024, che ci racconti? Dunque, domani pomeriggio alle 3:30 faremo un po' il punto sulla situazione del mercato della telefonia mobile. Ci sono stati molti annunci questa settimana, un po' da tutti i produttori. Però parleremo in modo particolare di pagamenti elettronici, con particolare attenzione al telefonino, perché il telefonino, lo sappiamo, diventerà uno strumento di pagamento. Ne parliamo anche perché sta partendo in queste settimane una sperimentazione, solo per una settantina di dipendenti, di una banca in Valtellina. La cosa interessante, perché all'interno del telefonino è stato inserito un chip, si chiamano chip a radiofrequenza, che trasforma il telefonino di fatto in una carta di credito. Quindi in futuro sicuramente... Tu ci credi? Sì, ma non c'è dubbio. Tra l'altro in Giappone, io sono stato 2 mesi fa in Giappone, loro comprano dalle macchinette, ci sono le macchinette automatiche, passi il telefonino, non hai neanche bisogno di schiacciare tasti lì, allora, perché riconosce. Sì, purtroppo il Giappone non è un termine di paragone per nulla, perché sappiamo che là ci sono le connessioni ad internet a gigabit. Certo. L'alta definizione è una roba già ormai vecchia, da 10 anni esiste l'alta definizione, oggi noi sono invece ne parliamo. Quindi anche dal punto di vista della telefonia mobile, purtroppo è sicuramente un punto di riferimento per il futuro, ma forse è meglio parlarsi tra europei e americani. Tra l'altro la parte divertente è che chi usa i telefonini anche come portafoglio sono gli africani, cioè da un lato le altissime tecnologie, il Giappone, dall'altro invece il GSM degli africani che sono riusciti con sistemi di microcredito, ossia con le carte prepagate, a utilizzare il cellulare per farsi credito. Infatti parleremo anche di questo, perché in Africa la penetrazione dei conti correnti è molto più bassa rispetto al nostro paese ed invece molto più alta quella della telefonia mobile. Quindi il telefonino utilizzato come strumento di pagamento, soprattutto per fare il cosiddetto money transfer, funziona molto bene nei paesi in via di sviluppo, in Africa in modo particolare. La Nigeria è l'unico paese al mondo che ha una legge che ha posto un limite ai trasferimenti di moneta tra un cellulare ed un altro. Grazie Enrico, io saluto Giampaolo Colletti e Piero da Saronno, buongiorno. Arrivederci. Buongiorno. E l'appuntamento è per lunedì alle 4 con Nova Lab 24.